Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quella di oggi è una puntata molto difficile, una puntata che farà discutere. Difficile per chi ha studiato questa storia, difficile per me che l'ho approfondita, che sto per raccontarvela, difficile per voi che la ascolterete. Intanto è difficile perché sul protagonista di oggi c'è veramente pochissimo di scritto e di raccontato e di pervenuto fino a noi. È stata un'operazione archeologica più che una normale ricerca di informazioni, e mano a mano che questa vicenda si apriva ai nostri occhi ne emergeva un quadro agghiacciante, un quadro nel quale l'umanità non è contemplata. Questa è la storia di un uomo che non ha lasciato memoria in un mondo di memorie, di cui non è rimasto nulla pur avendo attraversato e vissuto in prima persona la nostra travagliata storia nazionale. Siamo rimasti increduli e addolorati anche noi mano a mano che ci addentravamo in questa storia, perché fa male raccontare certe storie, soprattutto quando c'è di mezzo un bambino che cresce, un bambino che diventa un ragazzo, un uomo e poi un vecchio, tutto questo senza mai vivere. Oggi raccontiamo una storia che non conoscete, quella della vita rubata di Aldo Togliatti, unico figlio di Palmiro Togliatti, uno degli uomini politici più potenti dell'Italia del dopoguerra, il fondatore, il segretario generale del Partito Comunista Italiano, l'uomo di Stalin in Unione Sovietica, quello che i suoi chiamavano il migliore. È che lo sviluppo economico è stato sinora regolato essenzialmente dalla dura legge del profitto, dell'interesse del grande capitale e dei ceti privilegiati. Il popolo ha lavorato forte, il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni, ma è accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate il miele o api, ma sono altri che lo godono. Vogliamo una società nuova, fondata sulla fine dello sfruttamento, sulla solidarietà e fraternità di tutti gli uomini, sulla loro eguaglianza sociale, sull'accesso di tutti al benessere, alla cultura, alla gestione economica politica del potere e sulla pace. Per questo lavoriamo e combattiamo. Parole bellissime che sembrano dette, come dire, da un uomo di nobiltà d'animo, colto, che cita Virgilio, che propugna una società dove tutti siano felici, che abbiano la serenità, la pace. Beh, questo probabilmente è valso come dichiarazione programmatica, ma certo non è stato applicato al suo unico, sfortunato e tormentato figlio Aldo. Forse ricorderete che abbiamo già affrontato una storia simile, quella di un'altra vita rubata, Rosemary Kennedy, la sorella del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, fatta lobotomizzare dal padre, dimenticata e rinchiusa tutta la vita in un manicomio affinché nulla potesse turbare l'ascesa della famiglia Kennedy. E se vi è sfuggita, vi consiglio di ascoltarla quella puntata, perché vi farete un'idea di cosa può fare una famiglia potente per mantenere il proprio potere. Ma se non altro, quello è un orrore che si è perpetrato lontano da noi, in America. Qui no, qui non bisogna attraversare l'oceano. I fatti che stiamo per narrarvi sono di casa nostra. Chiunque di voi può andare a fare un giro nei pressi di Modena per vedere almeno da fuori Villa Igea, ospedale privato tuttora esistente, il cui reparto psichiatrico è stato teatro per oltre 30 anni dei terribili fatti collegati ad Aldo Togliatti. Questa è una storia tutta italiana. È molto difficile ripercorrere la vita di Aldo Togliatti perché non ci sono molte notizie su di lui. Quelle poche che ci sono frammentarie, sono intercalate da grandi vuoti che durano anche anni, si possono solo fare illazioni su quanto avvenuto e vissuto da lui. Tutto è stato cancellato, tutto è stato spazzato via, temo, ad arte. Le ricostruzioni sono possibili sulla base delle vite dei suoi genitori, Palmiro Togliatti e la moglie Rita Montagnana, anche lei un importante membro del Partito Comunista, e si basano anche sulla testimonianza di pochi personaggi di contorno che hanno condiviso con Aldo i diversi terribili momenti della sua esistenza, sia in Unione Sovietica che nella casa di cura mentale di Modena, quella di Villa Igea. Aldo Togliatti è l'unico figlio di Palmiro Togliatti. Nasce il 29 luglio del 25 a Roma. La madre è Rita Montagnana, ex sarta, e anche lei una fervente attivista del Partito Comunista. Partecipa con Togliatti, con Antonio Gramsci e Umberto Terracini alla fondazione del Partito Comunista d'Italia. Poi si occupa della redazione del giornale La Compagna, organo del movimento femminile del partito, e diventerà anche senatrice durante la prima legislatura. Rita e Palmiro si sposano nel 24. Quando nasce Aldo, il padre non c'è, è stato arrestato per attività sovversiva contro il governo, siamo agli inizi del fascismo. Poi Togliatti usufruisce di un'amnistia, viene liberato quando vede per la prima volta suo figlio, il bambino ha 4 mesi. L'attività nel partito fa conquistare a Togliatti posizioni di rilievo, soprattutto quando si schiera apertamente con Stalin contro Trotsky, che poi verrà ammazzato a picozzate, come sapete. Poi viene cercato nuovamente, ricercato dai fascisti, e contemporaneamente viene nominato capo della delegazione del Partito Italiano per il 6° plenum dell'Internazionale Comunista. Togliatti lascia l'Italia per Mosca il 10 febbraio del 26. Con lui c'è la moglie Rita e c'è anche il piccolo Aldo, che ha appena 7 mesi. Il falco e il gabbiano. Immaginare cosa sia l'Unione Sovietica del 1926 non è difficile. Sono passati 9 anni dalla rivoluzione d'ottobre del 1917, che ha posto fine al regno e alla vita dello zar Nicola Romanov e di tutta la sua famiglia. Poi c'è stata la guerra. Insomma, l'Unione Sovietica è un paese all'estremo delle forze, dove ovunque ci sono fame e povertà. Ma questo ovviamente avviene per il popolo. Per Togliatti, per la moglie Rita, le cose non stanno così, perché loro sono personaggi politici importanti, sono uomini di fiducia di Stalin, sono trattati con i guanti. Togliatti è l'uomo di punta del movimento comunista più importante d'Europa, è un personaggio, la famiglia viene ricevuta con tutti gli onori, alloggia nel famigerato e terribile Hotel Lux di via Gorky a Mosca. È bellissimo dal punto di vista architettonico, una vera isola felice per i suoi ospiti illustri, il gotha dei capi dei partiti comunisti del mondo, Tito, Chuenlai, Dolores Ibarruri, ma è anche un teatro tragico di crimini efferati, dove ogni notte sparisce qualcuno catturato dalle purghe staliniste. Ascoltate cosa scrive sulla Repubblica, tra l'altro fondata da lei, Miriam Mafai, giornalista e politica, compagna per oltre 30 anni di Giancarlo Pajeta, un altro storico esponente del PC. Ci parla così dell'Hotel Lux e di quello che vi accade. Erano tempi duri per i comunisti di tutto il mondo. Venivano perseguitati dai regimi dei loro rispettivi paesi e arrivavano a Mosca, considerata allora la terra promessa. I più illustri venivano sistemati nelle stanze del Lux con le loro mogli, i figli, le valigie e i ricordi. Tra questi vi fu anche Togliatti, che vi creò il suo quartier generale, dal quale dirigeva un'attività di drammatica partecipazione alle oblique vicende dell'Internazionale Comunista, essendo corresponsabile delle decisioni più cruente di Stalin, come la liquidazione del Partito Comunista Polacco o la persecuzione di tanti comunisti ed emigrati italiani in URSS, rifugiatisi con fiducia a Mosca per sfuggire al regime di Mussolini e scomparsi tragicamente nella fornace stalinista, che triturava tutti coloro sui quali alleggiasse anche un minimo dubbio di fedeltà al terribile Stalin. Questa è una tristissima pagina della nostra storia e della storia mondiale. Saranno tantissimi gli italiani che, fuggiti dal regime di Mussolini, sono riparati in Unione Sovietica e credendo di trovare un rifugio sicuro, e poi invece la maggior parte di loro verrà tradita e sparirà nel nulla. Il piccolo Aldo per ora non può comprendere tutto questo orrore. Ha 1 anno, poi nel 27 la famiglia si sposta per alcuni anni a Parigi, dove si è costituito il centro estero del Partito Comunista, dove Togliatti viene inviato come coordinatore. Ma nel 34 la famiglia rientra a Mosca. Aldo adesso ha 9 anni, ha fatto le prime classi elementari in lingua francese, adesso prosegue in russo, parla italiano e insomma è una mente aperta, ha viaggiato, e per essere così piccolo ha già visto tanto, conosce il mondo mondo, un bambino svegliissimo e uno studente modello. Aldo Togliatti è un ragazzino in gamba, legge molto, forse un po' taciturno, anche perché sta sempre solo, i genitori sono molto impegnati, lui si è abituato presto a convivere con se stesso, a parlare da solo, a godere di quei rari momenti in cui la madre e il padre si dedicano a lui, non più di 5 minuti, perché c'è sempre qualcosa da fare, qualcuno a cui telefonare, qualche carta da leggere. Poi la madre Rita studia alla scuola leninista internazionale, l'università del comunismo mondiale, una specie di Massachusetts Institute of Technology della politica, si studia propaganda, teoria, tattica della rivoluzione proletaria. Intanto Aldo sta da solo nella bella stanza dell'Hotel Lux, mangia alla mensa. I suoi compagni di gioco sono i figli di Luigi Longo, Gino Libero, Putisci, anche loro lasciati al loro triste destino. Aldo è infelice, si fa delle domande, perché non è stupido. Una sera nella hall dell'Hotel Lux, Teresa Noce, moglie di Luigi Longo, lo vede talmente cupo e taciturno che gli chiede: perché sei così triste? Non lo so, risponde lui. Ma perché gli altri genitori stanno sempre con i loro bambini e io sono sempre solo? Non c'è risposta che tenga a un bambino che sente la mancanza dei genitori. Ascoltate cosa scrive Rita Montagnana in uno dei tanti opuscoli che redige in questo periodo moscovita. I bambini sovietici sono magnifici. Le madri lacere, i figli ben vestiti. Loro patite, i figli forti, robusti, belli. Allora uno capisce perché le mamme sopportano i sacrifici, perché vedono che i loro figli vivranno in un altro modo, avranno una vita diversa, un futuro, che deve essere migliore di quello che è toccato a chi li ha messi al mondo. Rita è convinta che lei e il marito Palmiro Togliatti, insieme a tutti gli altri compagni, stiano creando il meraviglioso mondo nuovo. È un processo difficile che magari richiede grandi sacrifici, ma non li chiede solo agli adulti. Anzi, il conto più salato lo chiede proprio ai bambini, per i quali si sta facendo tutto questo, ed è per questo motivo che viene edificato, questo è il verbo che loro usano, un enorme collegio destinato a accogliere i figli dei dirigenti comunisti con lo scopo di educarli, indottrinarli, di formarli come meglio dei loro padri e delle loro madri. Il collegio viene realizzato a Ivanovo, una cittadina che è a 290 km da Mosca, prima casa internazionale d'infanzia. Tutti chiameranno semplicemente Ivanovo, un nome che per molti bambini provenienti da ogni parte del mondo sarà per anni sinonimo di terrore, di tristezza, di solitudine, di indottrinamento. Massimo Cirri, giornalista, scrittore, autore teatrale, radiofonico, voce del programma Caterpillar di Radio 2, è uno dei pochi che hanno il merito di essersi interessato alla triste vicenda di Aldo Togliatti nel suo libro Un'altra parte del mondo, e lui Ivanovo la definisce così. Questo benedetto convitto di Ivanovo, che alcuni celebrano come una Oxford sovietica, dove studiano i migliori figli dei migliori rivoluzionari del mondo, altri lo rappresentano come un luogo molto discutibile, in cui per formare l'uomo socialista del futuro, intanto si spezza il ragazzino del presente. Eh sì, per formare l'uomo socialista del futuro si spezza il ragazzino del presente. Questa è una tragica sintesi di quello che accade nel convitto del perfetto comunista, dove ha la malaugurata sorte di andare a finire anche il nostro protagonista, il nostro povero Aldo Togliatti, un luogo nel quale lui entra con grandissima tristezza, ma entra sano di mente. È un luogo dal quale lui uscirà completamente trasformato, derubato della sua infanzia, della sua vita, del suo futuro. Il falco e il gabbiano. Oggi stiamo raccontando un dramma senza fine, la lunga, travagliata esistenza di Aldo Togliatti, unico figlio di Palmiro Togliatti, uno degli uomini più potenti dell'Italia del dopoguerra, il fondatore, il segretario del Partito Comunista Italiano, uomo di punta della sinistra di tutto il mondo, stretto collaboratore di Stalin. E la vita del figlio Aldo è una vita rubata, fatta di mancanza di amore da parte dei genitori, è rinchiuso prima nell'orrido Hotel Lux di Mosca, teatro delle purghe staliniste più efferate, e poi in un collegio lager in Unione Sovietica a 300 500 chilometri da Mosca dai suoi genitori. Qui siamo arrivati al 1936. Aldo ha 11 anni, arriva Ivanovo, il collegio creato per forgiare i futuri dirigenti comunisti. Ci arriva Natale, uno dei momenti che dovrebbero essere più felici per tutti i bambini, ma lui l'albero, i doni, le luci, il calore della famiglia riunita non li conoscerà mai. Ce lo mandano il padre Togliatti e la madre Rita Montagnana, non lo accompagnano neanche perché non possono, bisogna andare in Spagna dove sta cominciando la guerra civile, che è il fronte più caldo del movimento comunista internazionale. Insomma, non si può accompagnare il figlio in collegio. E Aldo ci arriva da solo nel freddo inverno, un ragazzino studioso, diligente, acuto, però è timido, è diverso dai suoi coetanei, e Ivanovo è il peggio che gli potrebbe capitare, perché lo studio è rivolto ovviamente esclusivamente all'indottrinamento, al lavaggio del cervello. Tra i 160 allievi vige un clima di delazione, di terrore. La giornata tipo ce la descrive Massimo Cirri nel suo libro Un'altra parte del mondo e ci fa venire la pelle d'oca. Sveglia alle 6:30, ginnastica, poi bagno. Alle 7:30 tutti schierati su una linea nel cortile interno per l'alza bandiera. Poi annuncio del programma della giornata e pubblico biasimo per chi lo merita. Prima colazione, studio. Seconda colazione, studio. Alle 2 pranzo, poi riposo pomeridiano. Alle 4 merenda, poi compiti. Alle 7:30 cena. Alle 8 ammaina bandiera e alle 9 tutti a letto. Veloci che si spengono le luci. Buonanotte. Giornate sempre uguali, tutte uguali per anni. Unica eccezione il giorno dei genitori, l'ultimo giorno festivo del mese in cui i genitori vengono a trovare i figli, quelli che vengono, perché Ivanovo è anche un posto di orfani o di figli di gente che ha da fare, come i Togliatti, che a Ivanovo non ci vanno mai. Gli hanno detto: vai lì, ci stai una ventina di giorni, fai il bravo, poi veniamo a riprenderti. Staranno via per più di 2 anni. E Aldo si domanda: che cosa avranno da fare i miei genitori di più importante che venire da me? E si arrabbia, piange, ma non si fa vedere, perché non bisogna farsi vedere da quelli che i genitori non li hanno più. Lui li detesta, i suoi genitori, suo padre e sua madre, perché non sono mai venuti a trovarlo. E poi scrive brevi lettere, tante lettere brevi. Qualcuno del partito le legge e riferirà che Aldo sente terribilmente la nostalgia. Scrive su fogli a quadretti con una calligrafia che diventa sempre più infantile, è il segnale di una sofferenza acuta. Lui sa quello che stanno facendo il padre e la madre in Spagna, che sa che c'è una guerra brutta, che ci sono i bombardamenti, che rischia di non vederli più. Scrive in francese: cher maman et papa, je me porte bien, faccio il bravo come mi avete detto voi prima di partire, allora vedete di tornare. Scrive al padre: vieni prima che puoi, ho bisogno proprio di te, se puoi. Sono lettere permeate di un'ansia sottile, a tratti si tingono di angoscia pura. Aldo Agosti, biografo di Palmiro Togliatti, dirà che questo fascio di lettere da Ivanovo è la testimonianza toccante del dramma di tante famiglie di rivoluzionari, e le definirà un mazzo di dolore tenuto insieme da un nastro, ovviamente rosso. Invece di essere qui con me sei via. La cosa non mi piace per niente, ma almeno mandami un regalo. Non andiamo a Parigi, sia ben chiaro, ma almeno questa volta dammi retta. Vorrei dei francobolli esotici. Palmiro Togliatti e Rita Montagnana trovano il tempo di spedire a Ivanovo dei francobolli spagnoli, specialmente quello da 10 pesetas con il Cid sul cavallo bianco e nello sfondo un castello in rovina. Un pezzo forte che Aldo può mostrare con orgoglio in collegio. A te viene a trovarti la mamma, ma ora beccati questa sventola di francobollo spagnolo. Beh, una magra consolazione, un francobollo in cambio di un'infanzia rubata. Qualcosa cambia nella mente di Aldo a Ivanovo, anche perché la lontananza dai genitori non è mitigata dalle amicizie di collegio. I suoi compagni sono i due figli di Mao Zedong, poi c'è il terribile Zarco, il figlio di Tito, la figlia di Dolores Ibarruri, la pasionaria spagnola, tutta gente tosta come i genitori, ragazzi aggressivi, violenti, dai quali Aldo subisce continue vessazioni, un bullismo che durerà negli anni, rendendo Ivanovo un inferno assoluto dal quale non si può scappare se non chiudendosi in se stessi. Solo con Gino Longo, il figlio di Luigi, Aldo riesce ad avere un minimo rapporto, ma non basta. Il suo processo di estraniazione dal mondo che lo circonda, dalle sue indicibili sofferenze, parte da lontano, dalla sua indole, da quella mancanza che sente fin da piccolissimo. Ma a Ivanovo trova il terreno più adatto per radicarsi e in maniera permanente nella sua psiche. Fine della guerra spagnola, presa del potere da parte di Francisco Franco, Togliatti e Rita Montagnana devono scappare, tornano in Russia. Quella che è stata la prova generale della seconda guerra mondiale si rivela una dura disfatta per il comunismo europeo. In Unione Sovietica l'umore però è ben diverso, la fedeltà al partito e a Stalin è ferrea. Non sappiamo quando di preciso i genitori vanno a riprendersi Aldo, ma nel 41 lui si trova di nuovo a Mosca all'Hotel Lux, perché Gino Longo nei suoi 7 libri di autobiografia racconta del suo arrivo insieme al fratello a Mosca, proveniente da Ivanovo, ad accoglierli. C'è proprio Aldo, ritornato dai genitori poco prima di loro. Gino Longo descrive Aldo introverso, chiuso, sofferente, uno che guarda piuttosto che uno che fa, ma lo definisce anche il più intellettuale di tutti noi, proprio figlio di suo padre. Ma il padre, Palmiro Togliatti, come lo definisce il figlio? Ha letto più di me, è bravo, competente, preparato, è anche comprensivo, calmo e ubbidiente, ma non riesco a capirlo. Ha il terrore degli altri, panico, orrore, un incubo che non passa mai. Insomma, si avverte un certo disappunto in Togliatti, nel migliore, e il suo unico figlio non è come lui, non ha il suo piglio, la sua sicurezza, le sue certezze, non ha nemmeno il suo credo. Si vocifera che sia anticomunista, che abbia perfino una sorta di crisi mistica, che parli di volersi fare prete. Ecco il punto. Immaginate lo scandalo. Il figlio di Palmiro Togliatti che si fa prete, non se ne parla proprio. Aldo deve fare l'università, deve fare ingegneria. Siccome il ragazzo è obbediente, va all'università, perché al padre si deve obbedire. Aldo inizia l'università in Unione Sovietica, porta a termine il ciclo di studi, poi arriva però un ulteriore dramma a sconvolgere la sua vita, il suo equilibrio precario, e la guerra è terminata, il fascismo è finito, si torna in Italia, ma Aldo non vuole lasciare l'Unione Sovietica, perché per lui non è un tornare, aveva un anno quando è partito, per lui l'Italia è un paese straniero, tutto quello che non conosce per lui è fonte di terrore. In più i genitori ovviamente non lo prendono con sé a Roma, lo mandano a Torino dalla zia paterna Maria Cristina. Loro non possono occuparsene perché è un ragazzo difficile, perché non è in linea, e Aldo si iscrive al Politecnico, non riuscirà mai a laurearsi perché ha grandi difficoltà, non con lo studio, ha difficoltà a rapportarsi con gli altri, sarebbe meglio dire incapacità a rapportarsi con gli altri. A lezione sta in disparte, si mette in alto nell'aula universitaria fatta ad anfiteatro, lassù in cima, lontano da tutti. E siccome è miope, come suo padre, per guardare la lavagna usa un binocolo. Gli altri lo sfottono. Il figlio di Togliatti viene a lezione col cannocchiale. E questa è quasi una metafora del suo male di vivere. Il mondo lui lo tiene lontano, lo guarda col cannocchiale. Intanto i suoi a Roma stanno lavorando. Rita fonda l'Unione Donne Italiane e sceglie insieme a Teresa Mattei e a Teresa Noce il fiore della mimosa come simbolo. Diventa parlamentare, poi senatrice. Togliatti, lo sappiamo, è il migliore, diventa vicepresidente del Consiglio, ministro di Grazia e Giustizia, segretario generale del Partito Comunista. Insomma, i due hanno molto da fare, e un figlio così difficile rappresenta per loro esclusivamente un problema. A questo problema se ne aggiunge un altro che trasforma le vite di tutti, che getta definitivamente Aldo nel baratro, un problema che si chiama Nilde Iotti. Togliatti la conosce nel 1946, lei ha solo 26 anni, è appassionata, gli unisce la lotta, il credo politico, insomma i due intrecciano una relazione clandestina che poi diventa ufficiale nei primi mesi del 1948, perché Palmiro Togliatti lascia Rita Montagnana, che da quel momento ovviamente viene allontanata da qualsiasi qualsiasi attività politica, perché lì si usa così. Il partito la sposta a Torino per occuparsi del figlio Aldo, quel figlio così problematico. Non si può spiegare ad Aldo cosa significhi la separazione dei genitori, lui ha 23 anni, ma per lui così fragile questa è la tragedia definitiva, quella dalla quale non ci si salva. Vedersi messo da parte, vedere la madre messa da parte dopo tanti anni di militanza è qualcosa di intollerabile. Ma nonostante questo, quando serve, Aldo, per suo padre, corre subito. Il 14 luglio 1948, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista e leader dell'opposizione, subisce nei pressi di Montecitorio un attentato. A Torino e a Genova, decine di migliaia di persone scendono in piazza. Le fabbriche vengono occupate, mentre si moltiplicano i blocchi stradali. E la CGIL proclama lo sciopero generale. E Aldo, malgrado tutto, corre al capezzale del padre. Il padre si riprenderà presto, sembra possa esserci un riavvicinamento tra i due. E poi il ragazzino viene a sapere qualcosa di ancora più terribile della separazione. Suo padre e Nilde Iotti hanno adottato una bambina, Marisa Malagoli. Aldo la conosce nel 50, non si sa bene se a casa del padre, a Roma, in una sede del partito, forse in occasione di un tremendo incidente d'auto che Togliatti ha in quell'anno. Aldo ha 25 anni, Marisa 6, è una bambina, lui è impacciato, sta in silenzio perché ha un dolore dentro, un insieme di cose che lo tormentano, non sa dove mettere le mani, si sente messo da parte di nuovo. Adesso che c'è lei si sente meno amato, meno figlio, il figlio meno amato. Inizia la sua discesa verso il baratro da fuori di matto. Viene visitato, la diagnosi a questo punto è schizofrenia. Inizia un periodo tragico per Aldo e anche per sua madre, che ormai è caduta in disgrazia e quindi dividerà il destino col figlio. C'è un peregrinare da dottore a dottore, si va in Unione Sovietica, in Bulgaria, in Ungheria, dove dicono che sono bravi a curare queste malattie, ma Aldo non è curabile. Madre e figlio rientrano stabilmente a Torino sul finire degli anni 50, sono una cosa sola ormai, una simbiosi di sofferenza, entrambi soli e traditi. I giornali li spiano e ci ricamano sopra. Come vivono la moglie e il figlio di Togliatti? Modestamente. In un appartamento alla periferia di Torino devono misurare i soldi della spesa, mentre Togliatti progetta di costruirsi una sontuosa villa al mare. Rita e Aldo vengono dimenticati, estromessi da tutto. Nel 64 Togliatti muore a Yalta, in Crimea, mentre si trova in vacanza. Ai suoi funerali a Roma, dietro al feretro, ben visibili da tutti, ci sono la compagna Nilde Iotti e la figlia adottiva Marisa Malagoli. La moglie legittima Rita Montagnana e Aldo, l'unico figlio, seguono da lontano i funerali, chiusi in una macchina del partito, nascosti agli occhi dei curiosi. Nel 79 muore anche Rita Montagnana. Il partito a quel punto si fa carico del povero Aldino. Così è diventato Aldo Togliatti, il povero Aldino. Lo si recupera, lo si porta dove si prenderanno cura di lui, dove in realtà verrà nascosto, è registrato col solo nome di battesimo, senza cognome. Viene internato a Villa Igea, all'ospedale del partito che si trova a Modena. Lì c'è una fantastica area psichiatrica che si occupa di quelli che non ci stanno più con la testa. Aldo viene messo nella stanza 227, poi nella 429, insieme ad altri due malati di mente gravi. Il compagno Aurelio Pini viene incaricato di fargli visita una volta alla settimana per portargli le sigarette stop senza filtro e la settimana enigmistica, uniche gioie di Aldino insieme agli scacchi che ovviamente gioca da solo. Nel 93 quello che è rimasto un segreto per 13 anni viene fatto emergere da alcuni giornalisti della Gazzetta di Modena che stanno indagando su alcuni fatti poco chiari avvenuti nella clinica psichiatrica. Il polverone su quel figlio matto di Togliatti cancellato dalla famiglia e dal partito, ovviamente, si risolve però in un nulla di fatto. Aldo a Villa Igea rimarrà in tutto 31 anni fino al 9 luglio del 2011, quando muore all'età di 86 anni, senza aver mai vissuto un solo giorno da uomo libero. Ci sono storie in cui la cattiveria, la sopraffazione, la prevaricazione sembrano avere la meglio su tutto e su tutti, ma noi ci auguriamo che l'anima di Aldo Togliatti possa volare in alto malgrado tutto quello che ha subito e malgrado le risalite che lui non ha potuto avere perché tutto gli è stato impedito. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarmi sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.